Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro settimo, versi 491-794. Minosse, re di Creta, punta con la flotta su Atene per vendicare la morte del figlio Androgeo. Dagli ateniesi Cefalo, principe della Focide, è spedito a chiedere aiuto a Eaco, re dell'isola di Egina. Dalle mura di Enopia potresti vedere ancora la flotta di Creta e a vele spiegate vedresti un vascello ateniese fiondarsi e gettare le ancore nel porto amico. A bordo Cefalo con un messaggio da parte della sua patria. I giovani figli di Eaco, sebbene lui non lo vedano da tempo, lo riconoscono, ma sì, gli stringono la mano, lo accompagnano a casa del padre, l'affascinante eroe che porta ancora le tracce della bellezza di un tempo, si presenta, ha in mano un ramo d'ulivo delle sue parti e ai due lati, lui più anziano, due ragazzi, rampolli di Pallante, a destra Clito, Bute a sinistra. Dopo lo scambio di indirizzi che inaugura il protocollo, Cefalo assolve al mandato conferitogli dagli ateniesi e chiede aiuto, ricorda i patti giurati dai padri e aggiunge che quello aspira al dominio su tutta la Grecia. Ha appena espletato e con tanta eloquenza la propria missione che Eaco, la mano sinistra sul pomo dello scettro, «Non chiedetemi aiuto, ateniesi, pretendetelo», disse, «non fatevi scrupolo a considerare vostre le forze di quest'isola. Finché le cose mi vanno così, le risorse non mi mancano e ho truppe che avanzano per difendermi e per attaccare. Non avrei scuse, grazie agli dèi è un periodo felice». «E speriamo che duri», fa Cefalo, «e che la città ti si popoli ancora di più. Arrivando, mi rallegravo davvero a vedermi venire incontro giovani tanto belli e tanto coetanei. Peraltro ho cercato parecchi che vidi la prima volta che veni da voi, ma senza trovarli. Manda un gemito, Eaco, e con voce triste racconta. La buona ventura consegue a lacrimevoli esordi. Potessi darvene conto senza parlarvi di quelli. Andrò per ordine, ma per non tenervi in sospeso, dirò che quelli che cerchi a memoria sono ossa e cenere e sono una minima parte di tutto quello che ho perso. Una orribile peste piombò sul mio popolo, causa il rancore di Giunone contro la terra che ha il nome d'una rivale detestata, fintanto che il morbo fu nell'ordine di natura e oscure le cause lo abbiamo combattuto con l'arte dei medici, ma l'eccidio eccedeva ogni cura, sì, la rendeva ridicola. Da principio il cielo pressò la terra con una caligine spessa e la cappa di nuvole manteneva un'afa indolente. Quattro volte aveva la luna congiunto i corni, colmando il suo disco, quattro il disco smagliandosi, era svanito senza che lo scirocco smettesse il suo fiato di peste. E il contagio risulta inquinare sorgenti e laghi, risulta che migliaia di rettili, serpeggiando per campi incolti, contaminassero i corsi d'acqua coi loro veleni. Con una strage di cani, di uccelli, di pecore e buoi e di belve, il morbo dichiara la sua fulminea potenza. Il povero contadino stupisce a vedere i suoi tori più robusti cascare per terra, lasciando il solco a metà. I greggi di pecore mettono lunghi belati malati. La lana si stacca da sé, suppurano i corpi. Il cavallo, una volta focoso, invincibile nelle arene, non vince più, si dimentica gli onori del tempo andato, rantola nella stalla e aspetta una torpida morte. Delle sue furie il cinghiale s'è scordato, diffida la cerva della sua corsa, l'orso gli armenti più non razzia. Tutto languisce. Nei boschi, per le campagne, in strada, giaccion carogne schifose che viziano l'aria di puzza. Non le tocca nemmeno un cane, incredibile, non un uccello da preda, non un lupo grigio. Marcendo si squagliano e col fetore diffondono intorno il contagio. Poi la peste, aggravandosi, colpisce quei disgraziati dei contadini e si insedia fra le mura della città. Comincia con un bruciore d'intestino che si tradisce in un diffuso rossore e in un fiato corto e rovente. La lingua è ruvida e spessa, la bocca secca boccheggia e inspira nel cavo col vento afoso l'aria malsana. Non il materasso, non si sopportano le lenzuola. Si giace a pancia sotto sul pavimento, ma invece di rinfrescarsi al contatto della terra, si scalda la terra. Non c'è chi porti sollievo. Si sfoga l'atroce flagello sugli stessi medici, nell'esercizio stesso dell'arte. Più stai vicino a un malato, più lo accudisci, più rapidamente contrai il morbo, e chi ha perduto la speranza di farcela e vede come unica fine al tormento la morte, si lascia andare e abbandona le cure. Le cure a che servono? In fondo, e senza pudore e senza criterio, si attacca alle fontane, ai fiumi, ai pozzi e non estingue la sete se non con la vita a forza di bere. Molti gonfi, pesanti, non riescono più ad alzarsi e crepano dentro l'acqua, acqua che altri si ostinano a bere, e c'è chi per il letto prova un ribrezzo tale che schizza su, o se le forze non lo reggono in piedi, si rotola per terra pur di fuggire dalla propria casa. La propria casa ai singoli sembra funesta e, ignorando le cause del contagio, lo si imputa all'angustia delle dimore. Vedevi per via barcollare mezzi morti finché ci riuscivano, o ne vedevi sdraiati per terra che singhiozzavano, ruotando in un supremo spasimo, gli occhi stanchi, tendevano braccia alle stelle del cielo incombente, e dovunque li sorprendesse la morte, spiravano a caso. Io cosa provavo? Potevo non detestare la vita e non voler condividere il destino della mia gente. Dovunque girassi gli occhi, non vedevo che poveri corpi buttati in terra, come si vedono in terra le mele marce sgrullate dal ramo o le ghiande ai piedi del leccio. Vedi lassù quel tempio con gradinate lunghissime? È il tempio di Giove. Chi su quegli altari non ha bruciato inutile incenso? Quante volte il marito, nell'atto di pregar per sua moglie, il padre per suo figlio, hanno perso la vita sotto quegli implacabili altari? Quante volte li hanno trovati con in mano un mozzicone di incenso non consumato? Quante volte i tori condotti al tempio, mentre il sacerdote formulava i voti e versava tra le corna vino purissimo, son crollati senza aspettare il colpo? Una volta ch'io stesso officiavo un sacrificio a Giove per me, per la patria, per i tre figli, la vittima emise muggiti sinistri e prima che ricevesse il colpo crollò, macchiando di poche gocce il coltello piantatole sotto la gola. Malate Le viscere la verità non segnalano più, né i moniti degli dèi. La peste penetra a fondo. Davanti alle porte dei templi ho visto cadaveri a mucchi, davanti agli stessi altari, quasi a render la morte più turpe, ne ho visti che si strangolavano per sottrarsi al terrore della morte con la morte, facendo fretta al destino. Le salme ormai non si inumano con esequie, per tante esequie non sono larghe abbastanza le porte della città. O restano in terra insepolte, o le bruciano in grandi falò, senza il minimo onore. Non c'è più rispetto di nulla. Si litiga per i roghi, si cremano i morti su pire allestite per altri. Più nessuno versa una lacrima. Le ombre di figli e di padri, di giovani e vecchi, vagano senza chi li rimpianga. Per le tombe non c'è più spazio, per i roghi non bastano gli alberi. Sbigottito da tanto uragano di sventure, Giove, mio Giove, grido, se non son chiacchiere, che Igina, figlia di Asopo, ti ha stretto fra le sue braccia e che, padre di tutti, tu non ti vergogni di essere mio padre, o rendimi i miei sudditi, o lascia che anch'io ripari dentro una tomba. E lui mi fa segno con un fulmine e un tuono propizio. Capisco, dico, e sia questo un indizio delle tue buone intenzioni. Perdonami se lo prendo per una promessa. Lì vicino c'era una quercia di speciale ampiezza di chioma, sacra a Giove e generata da una ghianda di Dodona. E lì vedo in lunghissima riga formiche che hanno raccolto semi e ne portano il grande fardello con piccole bocche, seguendo un loro cammino nelle rughe della corteccia. Sbalordito dal numero, dissi: «Buon padre, perché non mi dai cittadini altrettanti, ch'io possa riempire le mura deserte?» La grande quercia ha un fremito e senza un refolo d'aria stormiscono i rami. Un brivido di spavento mi corre nelle ossa, mi si rizzano in testa i capelli. Tuttavia tempesto di baci la terra e la quercia, pur senza confessarmi la mia speranza. Ma spero, e il mio desiderio lo carezzo nel fondo del cuore. Si fa notte. E il corpo spossato dalle ansie si arrende al sonno. E mi pare che mi si pari davanti la quercia, una quercia ampia altrettanto, gravata di altrettanti insetti, e mi pare che agitata dall'identico tremito sgrulli sui campi sottostanti un esercito di spigolatrici, le quali mi paiono d'improvviso cominciare a crescere e alzarsi da terra e stare ben piantate col busto eretto e deporre la gracilità, il subisso delle zampette, il colore nero ed assumere la forma del corpo umano. Il sonno svanisce, da sveglio depreco le mie visioni e mi lagno perché gli dèi non mi aiutano, ma nel palazzo sento un immenso brusio, mi sembrano voci di uomini dimenticate, sospetto ancora a trattarsi del sogno. Irrompe però Telamone, spalanca le porte, grida: «Vieni a vedere qualcosa che eccede speranze e illusioni, padre, vieni a vedere!» Esco e vedo gli stessi uomini che avevo visto nel sogno e li riconosco disposti nell'ordine stesso, un passo avanti e salutano il re. Ringrazio Giove e spartisco la città e i campi svuotati dai contadini d'un tempo fra i nuovi abitanti e dal greco Myrmex li chiamo Mirmidoni, che il nome ricordi l'origine. Ne hai visto i corpi. Lo spirito è sempre quello d'un tempo. Di gente parca si tratta, laboriosissima, gente tenace nell'accumulare, oculata nel mettere in serbo. Tutti uguali in età e in coraggio ti seguiranno alla guerra, appena Scirocco, che qui ti ha portato, Scirocco lo aveva in effetti portato lì, girerà a mezzogiorno. Con questi discorsi o con simili si intrattengono dalla mattina alla sera. Quello che resta del giorno lo dedicheranno alla cena, al sonno la notte. Ma quando il fulgore del sole si riaffaccia, Scirocco spira ancora e alle vele impedisce il ritorno. I due figli di Pallante raggiungono Cefalo, è più grande di loro, e con Cefalo i due figli di Pallante vanno dal re. Ma re Eaco dorme ancora profondo. A riceverli sulla porta viene Foco, un figlio di Eaco. Telamone e l'altro arruolavano truppe per la spedizione. Foco dunque introduce all'interno del palazzo gli eredi di Cecrope, in un bello spazio, li fa accomodare, siede con loro. È allora che Cefalo, figlio di Eolo, un giavellotto d'un legno strano e con una punta d'oro. E chiacchierando del più e del meno, gli scappa detto: «Io me ne intendo di boschi, adoro la caccia, ma continuo a domandarmi da che pianta tu abbia cavato quell'asta, e mi dico, se frassino fosse sarebbe rossiccia, se corniolo, mi dico, sarebbe piena di nodi. Di dove arrivi non me lo immagino, certo è che i miei occhi non hanno mai visto arma da lancio più bella di questa». Uno dei due fratelli ateniesi, a sapere come si usa, gli risponde: «Trasecolerai più che della sua bellezza». Punta al bersaglio e lo coglie su una traiettoria sottratta all'alea e ritorna indietro da sé bagnata di sangue. Allora il ragazzo nipote di Nereo vuole sapere tutto: chi ha fatto un regalo del genere, come e perché. E per quanto glielo consenta la vergogna, risponde Cefalo, ma non dice a che prezzo lo abbia avuto, e straziato al ricordo della moglie perduta, racconta così, con le lacrime agli occhi: «Questa lancia, figlio di Dea, per cui piango, per cui piangerò, tu non crederci, per decenni, se decenni gli dèi mi daranno da vivere, è lei che mi ha rovinato e con me l'ha adorata, moglie mia. Un dono così non lo avessi mai ricevuto. Procri, ma avrai nell'orecchio il nome semmai di Oritia, la principessa rapita? Sua sorella era Procri, e a confrontare le due per bellezza e carattere avresti rapito Procri, semmai. Suo padre Eretteo e l'amore me l'hanno assegnata. Dicevano ch'io fossi felice, e lo ero. Ma agli dèi non piaceva, se no sarei ancora felice, suppongo. Non eran passati due mesi dal dì delle nozze, io ero andato a tender le reti per la cattura dei cervi, quando l'aurora, fugate le tenebre dal crinale dell'imetto, con la sua luce arancione, io non volevo, ma lei mi rapì. Senza offesa per una dea, fammi dire la verità, che il suo incarnato sia uno spettacolo, che vigili lei i confini fra giorno e notte, che beva succhi di nettare, non contesto, ma io amavo Procri. Procri avevo nel cuore, Procri in punta di lingua. Evocavo la santità del vincolo, i coiti fragranti, i patti d'amore stretti nel letto appena lasciato. La dea si risente, ma smettila con questa lagna. Vuoi Procri? Tientela, fa. Ma se leggo il futuro, ti pentirai d'essertela tenuta. E da lei mi rimanda furente. Rientrando, ripasso a memoria quel che la dea mi diceva e mi nasce il sospetto mia moglie non rispetti benissimo la fedeltà coniugale. Bellezza ed età mi costringono a pensarla adultera, me lo impedisce il suo modo di essere. Ma io non c'ero, ma io ero stato ben testimone dell'infedeltà di una moglie, ma chi ama ha paura di tutto. Voglio indagare, voglio tormentarmi tentando con doni la sua lealtà. L'Aurora d'accordo alla mia diffidenza e mi cambia d'aspetto. Me ne accorgo, non me ne accorgo. Comunque, irriconoscibile, entro in Atene e mi infilo dentro casa. La casa in sé escludeva la colpa. Tutto è innocenza, tutto è ansia per il padrone scomparso. Solo a stento e con l'inganno accedo alla figlia di Eretteo. La vedo, mi incanto e per poco non rinuncio al mio piano di metterla alla prova. Mi trattengo dal confessarle chi sono a fatica e quanta, dal coprirla di baci. Era triste, nessuna al mondo è mai stata più bella di lei, triste, e si consumava nel desiderio del suo sposo portatole via. Immagina il fascino, foco di lei, seppure il dolore concorreva al suo fascino. Non ti dico le volte che ha respinto i miei approcci con gran dignità, le volte che mi ha detto «io son di uno solo», a lui solo riservo i piaceri che so dare e non so dove sia. A chi, per idiota che fosse, non sarebbe bastata una prova del genere? A me, e mi ostino a darmi il tormento, fin tanto che a forza di offrirle spropositi di denaro e di regalie per una sola notte, in lei non colgo un'ombra d'imbarazzo. Purtroppo le urlo, hai davanti un amante finto, hai tuo marito davanti, mi tradisci sotto i miei occhi, puttana. Lei niente, lei sopraffatta da una vergogna muta, lascia il marito e la casa dove quel verme le ha teso la trappola e grazie a me, detestando gli uomini tutti, se ne va per i monti e si applica alle pratiche di Diana. Abbandonato così, un fuoco violento mi scivola dentro le ossa, imploro il perdono e ammetto la colpa e confesso che io stesso, tentato da tanti regali, avrei perso la testa se tanti regali mi fossero stati promessi. Alla mia confessione, sentendo vendicato il pudore offeso, lei mi torna e passiamo insieme dolcissimi anni d'amore. In più mi regala, quasi lei fosse un regalo da poco, un cane. Cane che Cinzia Diana le aveva passato dicendo «Guarda che questo a correre batte tutti!» E insieme mi dà il giavellotto che adesso mi vedi in mano. «Tu vuoi saperne di più del primo regalo?» Ascolta la meraviglia. È una storia così strana da farti allibire. Dunque il figlio di Laio aveva risolto l'enigma che nessuno aveva capito prima e la torbida sfinge stramazzata giaceva in memore dei suoi indovinelli tortuosi. Ma non son certo cose che temi lasci impunite. Subito un'altra sciagura si abbatte su Tebe Beozia. Una bestia fa strage e atterrisce i contadini per i greggi, ma anche per sé. Gioventù del paese vicino, arriviamo e recintiamo di reti i campi per quanto son larghi. E quella spiccava gran salti e leggerissimamente passava sopra la corda cui stavano appese le reti. Si sguinzagliano i cani e quella sfugge alla muta dei segugi, beffandoli, svelta più che se avesse le ali. Tutti in coro allora mi chiedono l'Elape, nome del mio cane, e lui già si dimena per liberarsi da sé della catena e strattona forte col collo legato. L'abbiamo appena sciolto che già non sappiamo più dove sia. Vedi ancora le impronte sulla polvere tiepida, lui però non lo vedi più. Non vola più rapida un'asta, non la palla di piombo scagliata roteando la fionda e nemmeno il dardo leggero che frulla lontano da un arco di creta. C'è un colle che dalla cima domina i campi all'intorno. Di lì su mi godo il magnifico spettacolo della corsa, dove la bestia un momento pare acciuffata, un momento la vedi sfilarsi dai morsi, e mica scappa per dritto, furba com'è, ma beffa la bocca di chi la bracca, avvitandosi in tondo e confonde la foga del suo nemico. Quello le è addosso, veloce quanto lei, e sembra la acciuffi, e non la acciuffa affatto, e i suoi morsi strappano l'aria. Che faccio? Ricorro al mio giavellotto, ma faccio tanto di girare gli occhi, librarlo e infilare le dita nel cappio della correggia che quando riporto lo sguardo sul punto di prima, al centro del campo, incredibile, vedo due statue di marmo. Una diresti che fugga, l'altra che latri. Chiaro che un dio non voleva che dei due, nella gara di corsa, uno fosse sconfitto, ammesso che un dio li stesse a guardare. Quella che abbiamo ascoltato è la 19ª puntata di questa lettura delle Metamorfosi di Ovidio, pubblicata dalle edizioni Rizzoli, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. L'ingegnere del suono è Matteo Bolzoni. Questo dentro ad alta voce. Andrà avanti fino al 5 settembre questa lettura delle Metamorfosi di Ovidio. Appunto, ricordate che durante il periodo della messa in onda sarà riascoltabile in streaming soltanto appunto in questo periodo. Ad alta voce, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Quella di oggi, vi ricordavo, era la 19ª puntata di questa lettura delle Metamorfosi Rizzoli, tradotte e lette dal grande Vittorio Sermonti. Siamo all'ultimo ascolto per quest'oggi della musica del cantautore texano Lyle Lovett. Ascoltiamo ora un brano dall'album Release Me del 2012, che anche attualmente credo sia l'ultimo. Quel Liberatemi sembra un po' anche quasi ironico, in effetti da questo album il cantautore texano decide anche di muoversi liberamente rispetto alle grandi major della musica. Da questo album che appunto si intitola Release Me del 2012, ascoltiamo Isn't That So. Yeah. bad at high and low. You got to bury the seed in the dirt, my friend, if you want the thing to grow. Isn't that so? Isn't that so? You have to go where your heart says go. Isn't that so? Isn't that so? Isn't that